provincia Urbia, e diventa sempre più grande, ci saranno sempre più cani da dare a mangiare. Gappa che è positivo, dai. Ok, dai, riprendi Roberto e fai girare, dai. Anche facciamo un epilogo. Domenico in andata, non in rientro, in andata a Suvia. Mario, io, Falchetto e Giuseppe. Dai, iniziamo da Giuseppe e poi vediamo dopo se c'è qualche altro. C'era anche Natalia Daniela, non so quando proprio se si siano spostati. Facciamo un attimo di bianco prima di tutto per vedere se c'è qualcuno che vuole entrare. Se no poi riprende Giuseppe. Un attimo di bianco, avanti che vuole entrare. E massimo. Avanti Giuseppe. Papà, vabbè, ma mi è sembrato volesse entrare qualcuno, ho sentito un colpo. Avanti chi vuole entrare sul 21. No, sono sempre io, poco fa, per disgrazia ho calpestato Domenico, senza volerlo naturalmente. No, stavo salutando solo a Mario, gli volevo solo spezzare tutte le costole, mi sparpagliare nella busta di monnezza e buttarla senza ormai. Uno dei classici saluti amichevoli che ci scambiamo io e Mario. Va bene! Mi sto perseguitando da un canale all'altro, ma infatti fermi su una frequenza o no? E Arrido, ci siamo stati in tre frequenze, ci siamo trovati. Dopo stavamo facendo delle prove, dei controlli, poi alla fine ci hanno seguito tutti, poi da lì siamo ritornati al 21, 38, 40, dai, non c'è problema. Di nuovo Domenico, se ci sembra di un colpo. Saccate la risonanza. Di nuovo Falchetto. È positivo. Domenico, non ti fermare a mangiare a saccate, Riprendi Giuseppe. Anda bene Falchetto. Domenico, se riesci a copiarmi i vai a cena ai Naniti giù a Olbia. E quando, non so se ci sei mai stato, ma se non lo conosci ci vai tranquillamente a nome mio. Cerchi di Domenica e scegli alla grande lì dentro, Mi hai sentito dove è la cosa? A Giuseppe. Adesso mi sono fermato un po' a rilassarmi, poi rientro a casa. Va bene, dai, ci sta. Io domattina invece le vataccia con la, diciamo, possibilità di rientrare, di ritornare indietro domattina, perché sicuramente troverò neve. Per la zona che devo battere domani, non lo so, ho forti dubbi, perché niente, ho visto le previsioni del tempo, ha messo neve qui anche a Sassari. Cavagava. E oggi com'è andata? Guarda, lasciami zitto, sono sempre scombussolato. Sì, sto viaggiando, sto facendo, e quello perché la barra non è che la puoi fermare così da un giorno all'altro. Però secondo me hai ragione tu, è un principio di questo cacchio di virus. Cavagava, si è influenzato. Ma lei ve l'hai trovato? No, negativo, freddo e basta. E poi questo capo di mal di stomaco fisso che io, guarda, che è una cosa che mi sta comprimendo più del freddo. Ci credo, non è preso nulla. Prendi qualcosa. E quindi quello che sto prendendo, mi sto imbattendo di pastiglie già, però sicuramente dovrà fare il suo corso, dai. E cosa si vuol fare? Non me lo sono preso quando lo devo prendere, e adesso magari a fine inverno me lo becco come ogni anno. Però va bene così, dai. Facciamo girare, riprendi tu, fai che per domenico se riesci a beccarlo ancora. Scappa di roccia. Attento, domenico se mi coppi il cambio. Se prova a chiamarlo io, comunque c'è la chiamata, ci siamo dimenticati. Adesso domenico se coppi con la città di Sassari, avanti. Sino a dopo andare, lo sentivo bene, dice, adesso aspetto, ho fatto qualcosa, dai, un'ultima chiamata, domenico, se no andrà via. Attenzione, domenico, se colpi Sassari, avanti. Poi ti sento piccolino, non so se puoi fare qualcosa, però se piccolino, va bene, è una giornata strana, tutti i segnali sono più bassi. Comunque, riprova un po', prova a farti sentire. Dov'è? Sei in mezzo al QRM, non capisco quello che stai dicendo. Per cui vediamo un po' dopo, tra qualche minuto, vediamo se ti riesco a sentire un po' meglio, dai. Comunque lanciamo a Mario, vediamo se Mario è riuscito a sentirti. Avanti Mario. No, negativo, quest'ultimo passaggio non l'ho sentito. Davvero. E niente. No, quello che mi stanno chiedendo è una grande meraviglia, che Giuseppe è molto più vicino di me, almeno. Molto, diciamo che è l'unico che non si sente con Domenico, almeno, è nulla, mentre che lui poco a poco lo sentiamo, magari male, un po' in mezzo al QRM e cose, però poco a poco ascoltiamo Domenico, invece non si sente per niente. E poi vi devo riproverare, perché stamattina avete disertato tutti, iniziando da Falchetto e tutti quanti gli altri. Stamattina in radio non c'era nessuno, la massa che ve ne senta. Attaccato, ha precisato l'antenna e vengo a seguire, ascolti chiaro. A me posso attaccare anche l'altro apparato, con quello ascolto meglio, cioè per l'amplificato ne vado anche in AM, non c'è problema. Vediamo adesso domenico se lo ascolto. Io se mi ha ascoltato sino a Berchita l'altro giorno, e io l'ho sentito dopo Adana, lo sentivo abbastanza bene, dai. Domenico ci sei ancora? Non ho probabilmente attaccato, perché lo sentivo bene, arrivava benissimo, dopo prova che di lì quel pezzettino lì. Di nuovo domenico, avanti. Dica, dai, riprendi tra l'altro Gianni. Probabilmente si è acceso la radio, che ne so, magari si è stufato perché sentiva piccoli o non ci sentiva, si è acceso la radio. E diciamo che domenico io lo ascoltavo bene sino all'ultimo passaggio che ha fatto, poi l'ho perso anch'io, ma io sono anche in macchina e è molto probabile che io non lo senta e voi lo sentiate. Non lo so. Avanti di nuovo, Falchetto. È positivo, io rilancio il mic a Mario con le scuse per stamattina, Mario, riprendi. Ehi, lei stavo scherzandomi, magari di più stanco del solito, non hai riacceso. Tutto qua. Niente scuse, non ce ne sono scuse, ognuno fa quello che gli pare piace, se gli aggrada accende, se non gli aggrada lo tiene spento. Campa di positivo. No, io lo stesso al medico lo ascolto, sì, la bivio di Ardera, però diciamo che ci sono certi punti che lo perdi, per esempio il primo pezzo quando sta scendendo per Ardera, che è sotto gli alberi lo perde, poi lo ripido come gira. E niente, purtroppo ci sono molti punti d'ombra lì. Lo sentiamo, diciamo così, a pezzi, un poco qui, un poco là, ma io arrivo sino all'incrocio di sino all'incrocio Perosini, a mezzo di io lo arrivo bene, perlomeno tutti quanti mi hanno detto sempre che io arrivo bene, perché sento a Vulcano, sento un po' tutti, a Vulcano lo accompagno addirittura sino al Milo di Volone. Figuriamoci se non arrivo lì a Bivio del Tiri. Posso un attimo? Dica, Mario, la moto si è rientrata. Come la moto? Ah, dico, la moto si è rientrata in frequenza. In che relativo? Boh, un paio di mesi. Ah, vabbè, no, per saperlo. Ok, no, approfitto del mic per salutare, visto che c'è un qualche stretto, quindi non deve stare in QRX, al limite vado a farmi un giro anche per questo. Siamo alle prossime, ciao a tutti, ciao Roberto, ciao Gianni, ciao Mario, Giuseppe e quant'altri, perché mi sono perso addirittura il log, si capisce tutto avanti, tra spostamenti, palle varie. Mario, la usai come al solito, ti piglio luce, te lo smonto, ti rimisci la cascetta. Ciao a tutti, Marameo, avanti Mario. Io spegno il macchino, tanto questa è la frequenza cauta, quindi posso spegno il macchino, se no non ti faccio più modulare. Mamma mia, il Tino Musco è entrato, Mamma mia, è il Tino Musco è un campo. No, no, il Tino Musco non lo sopporto, ciao, ciao. Bravo là, è stato un piacere Adriano sentirti, buonasera, buon proseguo di serata, tutte le prossime, guarda che uno di questi giorni venga a trovarti lì. Sì, c'è certo problema a trovare perché non sai neanche dove abito. Ciao Tino, là sto chiudendo, mi sto spostando a Fermicino delle frequenze, se sei più tardi entro a romperti la mazza. Però che fin pieno comunque. A chi? Ciao Tino, l'hai entrato, mi hai sentito? Avevi sentito, fai quello che avvia di. Sì, ce l'ho preso prima. Quando l'ho fatto l'ho passato a Mario. Ah, lo sapevo, sì, è normale. Ciao a tutti, ecco, vedi per me, che vado a mangiare. E prima la parte, ciao! Di buon fuoco! Ciao, Tino! Ciao a tutti, ciao! Vai, riprendo io, vediamo se c'è ancora Domenico. Domenico, se ci sei batti un colpo, se ci ascolti naturalmente. Tutto tace, va bene. Ok, facciamo la ripartita a Giuseppe, che è in parcheggio. Avanti, poi Giuseppe. Sì, niente, era solo per capire perché perdo Domenico subito dopo Sacarga. Giustamente come dice Mario, lui essendo non è tanto più basso di me, ma un tantino più basso di me, lui riesce a copiarlo meglio. Ma c'è da dire che Mario è tutto aperto, non è ostacoli. Tu sei mezzo imparato, quindi c'hai un assorbimento di onda molto molto più elevato di Mario. Sì, ti posso dare ragione al centro, che fare, migliorare credo, sollevando un altro po', altro non posso fare. E vabbè, quanto devi sollevare? Perché c'è palazzi molto alti tu vicino, non è così? Cappa, poi figurati che io in linea d'aria qui, oltretutto quando ero sul tetto la prima cosa che mi ha impressionato è stato il grattacielo, come ce l'ho ma è tutto dovuto, secondo me, perché tu hai una buona posizione, è tutto dovuto al palo basso, dai, Mario c'è un palo che gli permette di arrivare ovunque, poi anche la posizione è buona quella di Mario. Ma quanto è il palo di cosa, di Giuseppe, già? Basso, quanto esce dal tetto, Giuseppe? 2 metri. No, il palo, tra una cosa e l'altra, il palo era 5 metri mio, Gianni. Quanto l'hai messo dentro al tetto? Dentro al tetto ne avrò messo... adesso guarda, mi sto facendo... fai che sia 1,50 m, dai, 1,80 m. A misurare, vai, Giuseppe, no, fate gli scherzi. Dal punto più basso, più alto del tetto tuo, il piantone della mantova, quanto sporge? Ma il piantone cosa intendi tu? L'innesto della mantova dal tubo? Dal tubo dove vuoi infilare il coso, l'innesto della mantova? Come metti nel palo? Dove ci sono i radiali in parole povere? Da quanto è? Quanto dista dal punto più alto del palazzo? Sarà 1,50 m. Ma vabbè, praticamente da giù si vedono i radiali di ricezione, là. Ho capito, praticamente? Da giù non vedi i radiali di ricezione, se non ti sposti non li vedi. Infatti mi sembra che l'avesse piazzata senza radiali di ricezione. Giuseppe, se non consiglio, le radiazioni della mano almeno 3 metri dal punto più alto del palazzo tuo, dove la appoggi dal palo, se no non era di niente tu, e soprattutto non ricevi. Lo so, infatti adesso vedo che quest'estate non sarà per adesso, adesso quest'estate col bel tempo ho intenzione di buttare giù questo palo che avevo preso su da Tonino, il telescopico, e se riesco a mettere direttamente un palo unico, perché tutta la cosa dentro, l'ambaradame, il sottotetto, l'ho fatto, staffe e quanto c'è. L'unica cosa è buttare via di questo cacchio di palo che ho messo e niente, rimettere il nuovo e rifare tutti i cosi, i tiranti per il bloccaggio, hai capito, Robert? C'è il tubo impegnato di qualunque misura, te lo scegli come piace a te e te lo metti direttamente, è eterno quel tubo, perché molto spesso come sezione, diciamo, interno è molto, il materiale è molto grosso, poi è zingato a caldo, per cui rispetto a quel ripari che stai dicendo tu, telescopici, dura 4 volte di più, e se non alti più di 3 metri non c'è neanche bisogno di tirante. Ma io vorrei sapere solo una cosa, ma entrando, siccome l'ho fatta diciamo sottotetto, no? Ho messo le staffe sottotetto, addirittura quelle che avevo preso con Gianni ne ho preso 3 di staffe per murare le cose, il palo. Quanto lo devo prendere lungo questo palo? Perché grosso modo sarà, ma forse 1,80 m, dai, sarà 1,80 m che sta sotto le tegole. Io vorrei sapere, 1,80 m sta sotto, mi capisci? Tu spuntando dalle tegole, quanto deve salire questo benedetto palo? Meno 3 metri, di radiatore deve avere almeno 3 metri dal punto più alto del tetto tuo. La mantova quanto alto deve stare almeno 3 metri oltre il punto più alto del coso, per avere una radiatore ottimale. Poi più sali è meglio, naturalmente più sali devi usare le controvettature e mettere i tiranti, però se lo metti entro i 3 metri, se usi un tubo di quelli grossi d'acqua, non c'è bisogno di coso. L'oscillazione non è tantissima, elasticità va bene, senza bisogno di coso, di tiranti. Ok, Robert, dai, per adesso così devo tirare avanti questi mesi, perché poi quando si è in ferie trovo di nuovo la persona che mi ha fatto il lavoro, risalgo con lui e niente, troverò anche un qualcuno, qualche motocarro, qualcosa che mi porti qui il palo e dopodiché un attimo piazzarlo, perché io l'estate devo mollare solo i cosi, le crabatte che ho sottotetto, poi da più potrei comprare anche una tegola finta per non stare a fare di nuovo lavoro di cose, no? Di sistemazione del foro che è stato fatto per uscire il palo. Ma spiegami un attimino, il tetto tuo è tutto tegole o c'è anche un terrazzino o qualcosa del genere? Magari, tutto tegole con due spioventi, devi essere tipo Fantomas o Arsène Lupin per rimanere in equilibrio lì, eh? Come l'hai fissato tu al solaio, diciamo, la base del palo? La base del palo l'ho fissata è circondato da muri il sottotetto, no? In pratica sono cantoni, e cioè lì può tirare il vento che vuoi, che quello non lo butti mai giù. E ti sei fissato al cantone, non ti sei fissato, cioè alla parete, non ti sei fissato al solaio tu? No, proprio a parete, mi hai capito? Il tubo sta toccando in terra al solaio, però è fissato a parete con tre belle staffe, che poi tipo dire Gianni se interviene in questo momento. C'ho quelle staffe a tassello che entrano un bel po' nel muro, eh. E da lì non le muovi, poi l'ha anche cementata qui. Scusami un attimo. Sì, avanti. Allora, secondo me, lasciando il palo, se è un palo abbastanza buono, diciamo, non tocchi niente, l'antenna la attacca direttamente com'è, e li metti un altro palo sotto, un tubo d'acqua di quello spessore di lì, li metti due bulloni per tenerlo bloccato, e te lo fai, cioè ti allunghi il palo telescopico mettendogli un palo più grosso e robusto, così non tocchi niente, e ci tieni un attimo a sollevare. Lo so Robè, però sicuramente il lavoro che mi stai dicendo tu, sicuramente io non lo posso fare perché giù io ho dovuto mettere, diciamo, la parte più fina del palo, mi stai seguendo? Hai messo al contrario tu. E per forza, perché sennò non avevo l'incastro per mettere l'attacco della manto qua su. Quindi non è lavoro ideale, a quel punto ho cercato il palo di misura sua, ma lì mette lo stesso in due sezioni, perché se un palo da 6 metri ha portato su viene male, perché sono tubi di 6 metri quelli lì, te lo fai tagliare in due parti, oppure ne prendi due da 3 metri e te le fai di due misure e le metti uno con l'altro, ti salti due bulloni da coso, da 12 come passo, e fa un bel lavoro, dai. Che c'è una cosa più affidabile, più sicura. Vediamo un pochettino qua chi è rimasto, diciamo la falchetto, che nel falcheggio e poi facciamo girare, avanti falchetto. È positivo. Riguardo ai tubi, se sono tubi nocivi, basta prendere un aspirotto, un borsetto e poi collegare tutti i metri che vuoi, Giuseppe, non c'è problema. Sai che stavo pensando anch'io una cosa del genere, però io mi devo ricordare la misura esatta dell'attacco dell'antenna, mi hai capito? Perché io in pratica devo andare sul tetto con il tubo o con i due tubi, e staccare la mantova, rifilarla nel tubo e poi attaccare solo le tre staffe, perché non voglio fare nessun'altra modifica, cioè in pratica io devo trovare il tubo che entri direttamente su nell'attacco che ha la mantova. Positivo. Beh, il tubo lucido va bene, Robè, già mi conferma. Ci sono la 40 comunque, gli ho provato con la 40, è una misura un po' strana, non è facile trovarla, però tanto ti permette un pochettino, il tubo lucente è un pochettino più sottile, troppo sottile ti fa troppo gioco, vuole un pochettino più grosso. C'è una fascetta, la manto qua sotto, che ti dà un certo limite di regolazione, però il tubo lucente, per quanto mi ricordo io, non l'avevo messo per quel motivo lì, era troppo stretto, cioè lavorava male il piantone. State sbagliando tutto, il tubo innocente è un pollice e mezzo, e l'antenna è un pollice e un quarto. Appunto dico, c'è diversa misura, per quello che non l'avevo messo, ho lavorato con il tubo, come si chiama, quelli, adesso mi ricordo che misura era, tubo d'acqua, non so da quanto era esatto. Un pollice e un quarto è Roberto, lui dice un tubo, una verga da 6 metri, al limite la spacca in due, la parte tagliata che non c'è filettatura per poterlo salire su, lo taglia giusto a 3 metri, il tubo è filettato da una parte all'altra, gli mette un manicotto, lo sale su, una volta che è su gli mette il manicotto, un po' di grasso e adesso ci avvita l'altro, perché dove c'è la filettatura c'è da pigliare il ruggine. Invece lui furbamente gli mette un bel po' di grasso e poi gliela mette sino a stringere, sia quello di sotto dove ci mette il manicotto. stessa cosa. La rimanenza ci infila l'antenna e gli ha detto a Bullocino che c'è dell'antenna stessa per bloccarsi. E lui ha finito. Mario. Eia. Vabbè, ma cosa stai dicendo tu? Non è tanto, non è un lavoro definitivo, perché se devi fare manutenzione viene male per smontare, ci vogliono attrezzi di un certo livello. A quel punto lui, com'è l'innesto? Un pollice e un quarto, cosa ci puoi innestare più largo per infilarselo dentro? Se prende due perché uno ha 3 metri di un pollice e un quarto, e poi quell'altra più grossa, cosa devi metterci su? Interno un pollice e un quarto, quanto è esterno? Non entra da un pollice e un quarto. L'antenna c'ha l'attacco da un pollice, non da un pollice e un quarto. Un pollice e un quarto ce l'avevo io e poi ho dovuto attaccare uno spettone da un pollice, sennò l'antenna non entra. Manco si fa mazzetti. E da un pollice lo spessore del palo che entra dentro l'antenna. Troppo sottile, Natali. Dopo l'acqua ci vuole. Non è sottile, Galatito è sottile. Da un pollice e un quarto intanto non entra, eh. E adesso della misura quanto corrisponde un pollice e un quarto non ce l'ho la tabella. Però l'interno della manica è 40. Puoi arrivare fino a 38 tu per avere un coso tranquillo. Mi sembra tu veloce che il diametro esterno è 35. Asco, da un pollice. Io so solo quello, io l'ho messo da un pollice e va bene. E il palo poi lo puoi mettere anche da un pollice e un quarto, quanto ti pare ti piace. Però ci vuole uno spettrone da un pollice per l'antenna. Guarda, non insisto, Natali, però un pollice mi sembra troppo poco, secondo me. Dovrei verificare cosa c'è, cioè, le tabelle, mi sembra ancora domani, guarda quanto corrisponde di un pollice di tubo d'acqua. Dovrebbe essere 2,56, però voglio vedere, per me è troppo piccolo un pollice. Se non entra poi li fai prendere un pollice e un quarto e non entra l'antenna. Io non so che ad esempio che non entra. Ma allora, Natali, io non so se sia un quarto, un mezzo, un terzo, o chi sia. Il diametro interno della manica va dal tubo, il pianto è 40, tu ti vai dal tubo e ti misuri il diametro esterno, se tu sei meno di 40 c'entra, però non so che sia un pollice e un quarto o un pollice e tre quarti, quello non te lo so dire. Però il tubo da un pollice è troppo sottile, vuole più grosso, Natali. Non ero più grosso, e allora gli allenti l'antenna, va bene, QRT per me, tanto se non capite non ci posso fare niente. Ciao a tutti, QRT per me. Non capiamo, Natale, io ti sto dicendo che un pollice, io l'avevo messo ed è troppo sottile. Si può mettere lo stesso, però rimane troppo gioco, Natali, tutto con voi. Però io parlo per trovare il tubo più vicino, c'è un'altra misura, più di un pollice. Non mi lamento quanto sia, dovrei guardarmi le tabelle dei tubi. Forse sono anche qua, sai che non ne ho, non te puoi cercarlo. Se no te lo dico esattamente. Anzi, continuate a parlare, ve lo dico io, ora che lo cerco, così siamo sicuri. Cioè, avanti Giuseppe, poi fai girare. Sì, grazie Robè, dai. Avanti già, riprendi. Gianni, non c'è, qualche? Positivo, positivo. Vabbè, già si trovano le dimissioni, dai, tutto qua. Ok, dai, riprendi Mario. Comunque il tubo di accetti è troppo grosso, non è già. Perché il tubo di accetti è molto di più di 40. Mi sembra che arrivi a 50 il tubo di accetti. Infatti Mario, ma se io avessi avuto diciamo la misura giusta di come prenderlo il tubo, io l'avrei potuto anche prendere e sistemarmelo in stabilimento, e intanto ce l'ho, tanto è al coperto, all'asciutto e tutte cose, e poi al bel tempo avrei fatto il lavoro, mi hai capito Mario? Ma guarda, mi state mettendo tanti problemi, tante cose, adesso ti prendi di tizi. Tu il giorno che devi fare il lavoro dell'antenna, tanto l'antenna non la devi scendere, giusto? Una volta che tu ne l'hai scesa, tieni il metro o un calibro, quello che ti piace, misuri l'altezza del coso da... Grazie. scendi l'antenna per non farlo quattro volte, ti misuri la distanza che c'è interna del tubo dell'antenna, se fa un salto da marcito anche con la macchina, mi dici dammi una verga di questo calibro e me la tagli metà per metà e è finito. La prima metà te la metti subito dentro il tetto, col manicotto pieno di grasso, perché tu lo sai che quando scende qualche goccia d'acqua tende a mettere in ruggina. Ne metti un pochettino di grasso in modo da non mettere in ruggina, poi ci ha ritirato, ci ha preso le vergine di nastro e è finito, e ci rimetti la penna sopra. Ecco. Avanti Pierpaolo con il brecco. Schedatecca della Mantova 1, Paolo Montana, montaggio al Paolo Sostegno, millimetri 41, ciao! Ciao, allora sei 41 oppure c'è un quarto? Che c'è? Ciao Mario, buonasera, mi hanno ascoltato, ciao Giuseppe, ciao Pierpaolo, e poi non so chi c'è più rotta, dai. Dai Pierpa, ottimo come ingresso, abbiamo tolto finalmente ogni dubbio, dai, anche se ero sicuro di quello che diceva Mario, perché la Mantova ce l'ha anche lui. E niente, adesso aspettiamo il bel tempo, non ti dico d'età, ma anche in primavera. Perché io per sollevare i radiali, per farli uscire diciamo più su del tetto, io sono sicuro che bastino 2 metri, quindi non ho bisogno di portarla sino al cielo questa antenna, e con 2 metri penso che ci stiamo alla grande. Sì, ma non ho mai capito allora Giuseppe, tu ti devi pigliare un palo da semite, te lo fai tagliare giù in 2 pezzi, cerca di seguirmi, piedi il primo pezzo, le togli quello telescopico messo a testa in giù che hai messo, le lo togli e ci fili lo spessore da 3 metri e te lo abbrulli. Poi vai sul tetto, inizi l'antenna all'altro pezzo e ce lo avviti sopra l'altro manicotto, poi basta, è finito, non devi fare chissà che cosa e praticamente non ti rimarrà 3 metri ma ti rimarrà 4 metri fuori dal tetto di palo e hai fatto il gioco senza nessun problema. Sì, certo Mario, ti ho capito perfettamente ed è così che farò, non è senza nessun problema, perché sicuramente questo è il lavoro più semplice che dovrò fare. Ma Giuseppe, scusa un attimo, perché devi sollevare l'antenna? Capo, un pochino la devo sollevare Pierpa, perché non sto ricevendo bene. Io sono Pierpa, ciao Massimiliano. Oh, ciao Massimiliano, scusami. Sì, devo sollevarlo un pochino, ho i radiali un po' bassi. I radiali da mettere, quanti metri saranno? Posso un attimino, signore? Prego. Il tubo esterno, da un pollice e un quarto, Mario, non ci può entrare perché il diametro esterno è 42,7, la Mantova risale dentro il 41, diciamo 40 centimetri, per cui non ci sta un pollice e un quarto, dipende la misura inferiore. Allora, Giuseppe, io ti dico una cosa, non ti interrompe. Io ho messo un tubo d'acqua da un pollice e va bene lo stesso, perché dopo c'è quello che entra da dentro. E spinge lo stesso, capito? Quindi non va bene anche un pollice. Ok Massimiliano, devo rispondere alla domanda che mi hai fatto tu. Ti hai chiesto dalle tegole i radiali quanto distano. Ah capo, sì. Allora, io in piedi diciamo che non lo so, forse disseranno dalle tegole 1,60 m, dai. Allora, il mio prevedono essere dalle tegole, parlo dal tetto, così c'è scritto nella scheda tecnica, 4 metri. Cazzo, e già mi sembrava alta così la mia, vista quando l'ho piazzato, ho detto qui ne butto qualche elicottero io. Ma guarda, io ci ho messo una verga da 5 metri, no, da 4 metri, bugia, e l'ho innestato su un cono da un pollice e un quarto, cioè il tubo da un pollice l'ho rimesso dentro un pollice e un quarto, il tubo a un metro e mezzo, dove acchiappano le staffe, capito, dove stringono le staffe, è un metro, è un pollice e un quarto, e ci ho infilato dentro un tubo a 4 metri, io da, diciamo, dal tetto, diciamo, dal livello della tegole, saranno più o meno 4 metri, però io sono anche a un punto un po' critico, dove abito, è proprio un buco. Io qui, Robè, mi arrivate tutti bene, vi devo dire la verità, anche, cioè, di una bugia a dirvi, vi sento un po' così, vi sento, l'unico coso che ho è proprio la zona di non tanto di Muros, quella zona lì, perché anche Capri 2 mi arriva bene, da Muros in poi comincio a perdere qualcosina. Va bene, te la non sta irradiando, quella parte di sotto, i radiali di sotto, cioè irradiando sì, però in, come si chiama, il ricettore perde tantissimo, perché assorbe tutte le onde, se è troppo vicino alla terra non c'è la possibilità di ricevere, cioè no, non la stai sfruttando come deve andare, meno 3 metri ti devi sollevare dal punto più alto che c'è vicino al terrazzo, poi lo parliamo se c'è parati vicini che ti assorbono tutta l'intensità del segnale. Digitale avrei tipo Mario che non c'ha niente davanti, anche se serve l'antenna rossa, molto in alto, non ha ostacoli, lui spara, che è una meraviglia. Sì, ad esempio dove ti ha fatta la mia antenna, Robè, a fianco a noi, diciamo che è attaccato al mio palazzo, proprio rimane a fianco, ho come uno zoccolo che sarà un altro metro e 50, dai, alto dal nostro tetto, quindi sicuramente quello che sto perdendo io è anche i radiali che si trovano questo zoccolo qui al loro fianco. Può essere, comunque Mario adesso sto guardando le tabelle, roba di scuola, cioè avevo tutte le dimensioni del tubo eccetera eccetera, un pollice un quarto non ci sta, c'è un'altra misura di tubo, adesso la sto cercando, sono tubi di gas li chiamano, con un altro sistema di misura, io non ho messo uno di quei tubi lì perché tubo da un pollice un quarto non va bene Mario, è troppo largo. Quarti o deve essere chiuso come vuole, 3/4, capito? No, 3/4 è ancora troppo sottile. Allora, tu ci puoi mettere anche la 3/4, puoi mettere anche la 1/11, però c'è una misura, adesso la sto cercando qua nel libro, perché ci sono tutte le dimensioni. Allora, il pollice da 3/4 è 26,9, diametro esterno, il massimo. E mentre il pollice da 1/11 è 33,8, da 1/11 un quarto è 42,5. Tieni presente, l'interno della manto è 41, l'interno deve metterlo da 40, io ho trovato un tubo da 40. Adesso sto cercando che tipo di tubo era, ho messo tubi per gas. Ma Similiano, una di quelle campus l'ho provata. fai scendere domani, fai prendere con la roba, ti fai trovare da lì, sì. Mi fai fare domani da lì, ciao già. Dillo che lui ce l'ha il mio numero, mi arrivo in saluto e fa scendere giù da Pompone, ma non c'è la Pompone, oppure passo io da Pompone e me lo prendo. Pompone te la lascio. Ma c'è la Pompone, ha detto allora. Prendi l'ascensore salendo per lasciargli la capsula. Ciao Giuseppe, buonasera, domani ci devi essere anche tu, anche ora ti puoi trovare lì. Per me sarà dura domani, io sono nel Nuorese e Gianni domani, non so che tempo trovo e vediamo. Comunque se per tirarvi fuori da quella situazione lì vengo io vestito da pompiere domani. Oh, scusate un attimo, vediamo un po' sul 21 chi c'è, tutti molti, allora iniziamo da di pilota da qui da Gianni e voi vi fate girare. Benissimo, li prendo io. Ok, all'amico già li do più lungo, domani sera già prepara il portafoglio a soletto che c'è in grande asta da Pompolio. Sì, ma non so a che ora avviene, capito? Io non so a che ora avviene, se con a che ora avviene devo andare a lavorare. Ma quando mai ho detto tutte queste cose, lui non le poteva fare con una bassa a vedere l'orario, perché io poi ho quasi quell'impegno di casa del centro, mi sento di queste belle cose, e niente, hai capito? Io gli ho dato già parola da giovedì e vediamo un po' come va a finire la storia. Innanzitutto adesso l'amico Giuseppe. Va bene Gianni, dai, mannaggia, ma quando mai quest'asta la devono fare di giovedì? E poi io sarei stato del parere di farla dalle 7:30 in poi quest'asta, in maniera che ci possano essere anche i partecipanti, Gianni. E se no lo lascia da lì, se tutto quanto, e poi io vado e lo prendo. Ok, no, io domani sera se lo vedo. Io così impegno, ma già preso per quell'ora che si arrive. Bianco, dai, riprendo subito, dai, fate girare. Bella. Cosa stai facendo? Bianco, Falchetto, buon bianco, dai, se no buon rosso. Avanti, vai. Ciappa, Capri, guarda che quella persona là, purtroppo, non ti può dire, vengo a tale ora, ed è preciso. Quel tipo lì lavora sui pullman e bisogna vedere quando c'ha il tempo libero da poter venire qui a Sassari. È tutto lì il problema, capito? Magari lui stacca per dire alle 3 o alle 4, lascia il pullman a Uschiri, no a Chirivani. Lui da Chirivani deve venire a Sassari, andare a casa sua, caricare tutta nella BM e poi salire da Pompolio, così che lui l'orario preciso così già da prima non te lo può dare, anche perché non sa che turno gli tocca, capito? Purtroppo lui lavora con i pullman e a volte è in zona di Sassari, a volte fuori. Io lo so che lavora con i pullman, anche ai... al cubaccio, caro Mario, noi aspetteremo, ordine già, a mezzanotte domani facciamo il tutto, a mezzanotte, non mi conferma. Ma domani ci abbiamo la farla. Ehi, ma vieni però, se no ti trovo le ossa, ti trovo, anche a Giuseppe porta con la famiglia che c'è in Europa, in abbondanza. Noi dovevamo essere con Pier Paolo, poi si può venire anche Giuseppe se si aggrega. Io mi aggregherei volentieri, dipende a che ora è, K. Siamo tardi, o Giuseppe, capito? Io Capri 2, qui a Sassari, sempre che il buon Dio mi porti indietro domani, dopo la bufera che dovrò affrontare, penso di essere qui a casa per le 7, ma penso che sia già troppo tardi. Pensiamo, ho capito, verso le 7, capito, 7:30 a mangiare, dopo si suona e si balla. Ok, non vedi, tu ce lo fai un saltino. Ah, vabbè, ma ben volentieri, no. Io, appunto, la sera sto facendo delle cose, io seguo roba sportiva, già lo sa Gianni e gli altri, mi verrebbe anche un po' maluccio, perché finisco e poi sarò un po' pure stanco. Ma no, quello che volevo, mi incuriosisce, cos'è questa storia delle aste? Di cosa state parlando? Io ho comprato un Constant 25 giri, devo dare il microfono, Stefano, hai capito? E poi c'è anche altra roba che sta andando via. Beh Stefano, ma qua in CD? Lo conosco, già lo conoscevo già, capito, però non sapevo che la Gianni lo conosce più di me forse. E Stefano Principe, non so se l'hai conosciuto tu. No, non è il marito di Rita, no? No. No, no, e poi ti vedo una roba, perché dovete fare grandi acquisti. Diciamo che c'è qualcosa che mi interessa. Ma prendo. Mi dispiace che stia mollando, quello sì che mi dispiace, perché è una persona in gamba. No, non lo conosco, non posso giudicare. Cosa sta vendendo a livello di curiosità? Non che mi interessi niente, però per sapere. Allora, stava vendendo due o tre microfoni. Uno è l'MP2 da Palma, l'altro è... Vabbè, gli altri due manco ti dico perché sono già prenotati. Uno è Canal più 3, sono stato prendendo Capri 2, e poi c'è l'altro che lo sto prendendo io. No, non mi interessa, non c'è un altro di microfono. E poi gli apparati? L'apparati sta vendendo un Midland da stazione base, quello lì è libero ancora. Ma vecchia generazione? Capri. Quanto? Non lo so, Robert. E poi? Eia. Oh, di qua Capri 2. E poi cosa hai detto, di altro? Capri 2? Il microfono è MP2 da Palma. Sta chiamando Giuseppe a Capri, poi me lo dici già. Capri, ti sta chiamando Giuseppe. Quel Midland che ha nominato adesso Gianni Doppio Rumme, che abbiamo discusso a casa di Pomponio, tienimelo d'occhio, capito? Sì, non lo so se ti interessa, Giulio, a me non mi interessa, io ho preso le cose, ripeto, perché ce n'era un po' preciso, capito, perché il mio era da divisionare le bombine, e comunque l'ho preso e il giorno uno ci aveva il microfono, ha detto lo porto giù, quindi ha detto che sarebbe domani. E poi c'è questa roba, mi sembra che c'è anche un trasferto, alcune cose che... non so neanche cosa sia pure dell'altra roba, perché io lo penso solo del microfono e basta, però cioè, se ti interessa quella roba lì la faccio c'è da parte. Anche perché mi aveva lasciato il foglietto, ti ricordi, con tutta la roba che aveva a disposizione? E infatti ho lasciato un foglietto e c'era altro meglio, cioè a me niente, tu prese solo il microfono per far funzionare il contatto, perché c'era fino alla grande, infatti non lo voleva dare lui di domenica e niente, non c'era il meglio perché ci siamo capiti male, comunque erano rimasti per domani con questa roba. Poi la roba non lo so, a trasferte mi sembra che c'è e varie altre cose, anche un portatile da radio amatore, però non ce l'ho presente, ripeto, un apparecchio valvolato. Di 7 dei modelli, no, perché Salvatore Mazzari, io stavo cercando un portatile per la 27, se risentite qualcosa magari gli si può dire, e poi guarda se quello potrebbe servire a me, commutatore dell'antenna ha più di 3 posizioni però, almeno 4. No, quello lì non lo sta vendendo, mi pare, sta vendendo un apparato valvolare, 23 canali mi pare, un altro 40 canali, che sarebbe la stazione base. E poi questi microfoni, un trasverte e questo apparato portatile. Portatile per che frequenza? Radioamatoriale. Sì, ma non lo so di preciso. Va bene, dai. Buoni affari, fate, pagate di poco. 11.45, scusate, 11.45 trasverte. Il base mi pare che costa 200. Ecco, ho usato 200 euro. Cacchio, la perché il garage ha fatto lo paghi? Minimo 200 euro. Appunto, se mi calcolano un apparato 23 canali, chissà, della guerra, Ma è Midland, bellino come apparecchio. Vabbè, poi, non lo so, Io col garage mi trovo benissimo, ho pagato 200 euro, però non perché mi costava un po' di soldi. Sì, ma mi stai parlando di un Galaxy, non di un Midland, tu vuoi un Cortex Excalibur, nuovo, 100 euro, un affare, se mi vuoi ti do un nuovo telefono, 100 euro. Può prendere a coso, Giuseppe, è meglio questo Cortex Excalibur. Se riuscite a farmela bene sono sempre pronti, io ci metto un attimo, porto l'apparecchio e non ho problemi a dargli i quattrini. Allora aspetta, adesso contato le mani, il numero del telefono. E lui tra l'altro, ma guarda, se te lo trovo te lo do al volo. Tanto non è di qua, di Furia. Ah, che pagato. Attento, Capri! Di Mario, scusa, è questo Big Boy. Questo Big Boy che siamo, quando siamo presi da queste cose, ci dimentichiamo, non ci abbiamo dimenticato, ma è che siamo presi da, da tutte queste cose. Oh, poi Alessio sta vendendo un Arcos 5000 bis, quello che si è lavorato a Toglio. Dai, ancora non si tocca, che sono troppo curioso a tutti. No, ti volevo chiedere, ma sono fame, ci sono da mangiare. Ok, no, perché io ho il microfono solo, mi deve dare, poi l'altro fate i buoni affari, come ha detto Roberto. Gianni, lo so, cosa vuole. Comunque, anche quello manuale, io Giuseppe, anche quel tablet manuale non è male per montarlo in camion. Cappa Gianni, però mamma mia cara, troppe cose, troppe cose, ci sarei voluto essere io lì anche a vedere un pochino, per vedere un pochino, mi hai capito, perché una cosa è averlo sentito parlare, c'è questo, quello, quello, una cosa è essere lì con tutte le apparecchiature e vederle. Ah, se andiamo in bar, se andiamo insieme già ti indirizzo io cosa prendere, quel tunnel lo puoi prendere, lo applichi a quella stazione base, una bomboletta. Sì, avanti il break. Ciao, ma quella stazione base non lo so, 40 canali. Ciao, 23, non lo so, per qua. Se è così, 40 canali, o 23 canali. Sto vedendo la stazione base, 220 per la 220 volts, alimentazione diretta. 100 euro, 40 canali. Please select. Comunque 100, 200 euro già è troppo per un baracchino di quella generazione lì, è troppo. Un satellite lo puoi pagare 200 euro, ma un baracchino di quel genere lì è troppo. Guarda che non sia un pezzo d'amatore, un pezzo molto raro, ma non lo so, io non ne avrei mai dato 200 euro. Avanti Vela 1. Ho detto che è un precedent, 40 canali, stazione base. Tu ce l'hai? USB, SSB, tutto quanto già l'hai. Però non sarà interna. Che stavamo parlando l'altra sera? Di quello stavo parlando l'altra sera, è strana stazione base, qua di la Gianni la conosce benissimo. Allora se così va bene, se sapete chi è la prendiamo al volo. Ottima, te l'ho venuta io, guarda, più di quello non posso dire, io te l'ho data ultima e ultima l'ha tenuta lui, l'altro ci tiene, la spolverava la faccenda. Ok, allora se combiniamo l'affare io, domani no, io venerdì sono in ferie. E se riusciamo a organizzare l'incontro la vedo e la prendo. Quando vuoi, ho detto anche l'altra volta che era in vendita. È una stazione base direttamente a 220 volts, Gianni la conosce benissimo, sa anche che ha allineato bene USB e SP, è perfettamente allineato, è perfettamente funzionante, non sgarra di niente. Fabio Roger, Vela 1. Eba. Dimmi. Non ce l'ho presente, com'è fatto? Descrivimelo. Come te lo descrivo, è grande, molto più grande di un baracchino, non so cosa ti vuoi che dica. No, ma dimmi una cosa, c'ha strumenti, quanti strumenti c'ha? Ma lo vuole prendere lo strumento rotondo come l'S9. Tu il Ruiz l'hai visto il mio Gianni? Il Ruiz, il Pace, è simile così o di altra generazione? No, sono simile a quello. Sono simile a quello, però è che non c'è l'orologio, mi pare. Ma è un apparecchio che va molto bene. Aspetta, Antonio, attacca il presidente, faglielo sentire, vai. sbagli, però non ha l'FM, così è del fatto. L'FM non ce l'ha, eh? È perché in America non esisteva l'FM, cioè non esisteva, non lo utilizzavano, utilizzavano solo le bande laterali dell'AM, però funzionano bene, sono apparati che come modulazione vanno alla grande. Aspetta, te lo fa sentire un attimo l'attacca. 220 o 110 col trasformatore? No, no, 220 direttamente la presa. Che io lui se ci vuole il trasformatore, nel senso ci vuole un adattatore che te lo porti da 220 a 110, ma costa una fesseria. Infatti lo smio l'ha alimentato a 110, originale americano. Per capo, io ho i giochi belli che è così, a 115 e ho il trasformatore, non sempre diretto alla spina, cioè il piccolo trasformatore trasforma a 110 a 220. E così ho fatto con lui, sono preso la GBC, mi pare sia da 100 watt o da 200 watt quel trasformatore, e fa tutto quanto. E c'ha, vabbè, puoi alimentarsi anche a 12 volt, c'ha l'uscita a 12 volt, volendo lo puoi far alimentare anche con un alimentatore esterno. Ecco, anche questo. Vabbè, ma vediamo un pochettino che è rimasto. Capri, ancora ci sei? Ti lascio qui io, ecco, farò di me scala, eh? Questa è una bella radio, pulita, niente da recepire. già utilizzo già. Hola, ecco qua. Sentite un po', gamba. Attenzione. Avanti, avanti. Sì, ma io il microfono per quell'apparato lì dopo devo andare a sbattere la testa per prenderlo. Cos'è il microfono che fa a Giuseppe? Che cosa? Che microfono gli dai a Giuseppe? O solo l'apparato gli dai? Lo diamo con gli M1000, se se lo paga però. Quello che sta utilizzando adesso, che microfono è? Normale, adesso sta usando il DM1000, però non glielo do con l'amplificato, altrimenti glielo do col microfono normale. Vabbè, anche qua non lo sento l'eco, quell'apparato, e solo con quel volume. OPH, Roger, guarda a vedere Roberto, questo qua è senza l'eco, gaffa. No, quella radio, complimenti, aspetta, voglio fare una prova, prova a parlare. 1, 2, 3, prova radio, attenzione, Antonio Bombolino, gaffa. Ecco, per me non sei mai uscito così bene tu, forse è la migliore radio che hai avuto tu. Allora, sono 5,50 che va bene. Ma ti stai aiutando con qualche cosa tu? Che cosa mi devi aiutare? Non ne attacco io, no. Antonio, a me piace questa radio, non dico che sia da 10, però è una bella radio, pulita e naturale. Il microfono, magari sta facendo anche qualcosa al microfono, però ti è andato bene. L'avevo voluto sentire con tanto questo apparato. Gaffa, adesso l'abbiamo, ma non lo si può adattare, dai. No, perché c'è le connessioni diverse. No, va bene, Anto. Bisogna preparare di sentire anche in altre cose, in altri sistemi, in AM va benissimo. Ehi, Gaffa, Roger. Mi ha Luca Iello. Ciao a tutti, sto ascoltando. Ciao Luca Iello. Ciao Antonio, ciao Roberto, Mario, Pier Paolo, Gianni, non so chi ci sia. Io entro sempre così. Avanti Mario. Ciao Lena. A me non avete fatto entrare solo ora. E partito per salutarvi. Ciao Lena, ciao Antonio. E ciao anche a Luca che è entrato ora. Facciamo riprendere a Luca che non abbiamo entrato. Ecco, ma purtroppo segnali furti davanti a noi perché vi sento male. Vi sento tutti strani, fuori frequenza, distorci un po'. Adesso vediamo un po', lo do a qualcuno, proprio si trova questo apparecchio. Secondo me c'è qualcosa che non va. Segnali furti, vi sento male. Cioè, io non capisco niente, lui è tutto buono, ma il tuo stesso, sei incomprensibile. Gli altri, tutti bene, Gianni, Roberto, tu no, ma sei troppo forte qua. Dovuto attenuare un po', infatti tu non lo sento quel basso. Me come mi senti, Luca? Ciao, sono Giuseppe, ben sentito e ben trovato, Luca. Ciao Giuseppe, andiamo a momento qua, ti attenuato anche a te, siamo con le esperienze, mi sento male. Pappa Luca, qui sei forte e chiaro qui nella mia postazione. Pappa, avanti per parte. E poi se c'è un problema di che lo sento bene. Perché anche se arriva a forte, ma non arriva lì posti, Ma ho sentito bene, Mario, stavo andando via. Allora ti saluto Mario, buonasera, ce la riascoltiamo. Ciao Luca Riello, No, ma stavo andando via, Vera. Ho detto, facciamo riprendere l'ultimo entrato, così saluta un po' tutti e via. Niente di particolare, sono qua io, Vera. Ah, non ho capito perché stavi andando, ho capito, riprendo, perché io chiudo, ho capito, ho capito io, dai, vabbè, ok. Sì, buonasera Luca, riprendi Luca. Mario, fortissimo è qua, la radio allucinante, cazzo. Poi sono a casa, sta a fianco a me, allucinante. Come stai usando Mario? Ma non è cosa fai gli affari tuoi, Sono un certo l'eco. Cazzo, la radio allucinante. Qui, diga, bambù. Ma come ti sei? C'è il franchetto, davanti franchetto. perché ti ha fatto via? Per quanto la radio Mario, secondo me dovete abbassare un po', secondo me, un po' sopra gli altri, è un forte. È così la radio, Luca, non ci posso fare nulla io. La radio con il microfono è salenta, non basta. Niente di più, niente di meno. No, beh, confermi, è alta. Diciamo è alta, sì, però è dentro i limiti della saturazione. Va bene, l'unica cosa non mi piace di meglio questo ronzio di alternata sotto, purtroppo è troppo presente, però la radio è bella chiara e potente, no, non è fuori dai limiti, Luca. E si conferma, dai, vabbè. Lasciamo riprendere a Bombolino e fa girare lui, dai. Me la sento 5 minuti, 5-10 minuti, vado facendo qualcosina, dai, riprendi a tu. Scappa Roger. Comunque ti piace Giuseppe? Sì, come radio è buona, dai Antu. Poi il giorno quando capita lo vediamo e niente, già ci mettiamo d'accordo, dai. Non è quello il problema. L'importante è sempre trovare anche il microfono buono, perché è inutile avere una buona stazione se poi non ci si riesce ad adattare un buon microfono. Gaffa, ma il DVD non è arrivato. Negativus, ancora no, perché ci sono stati dei piccoli problemucci. Manca una persona che è in malattia. Ah, Gaffarroccio, è mai strano, c'è la batteria scarica, sono parecchio tempo senza usarlo. È strano perché se te l'avrebbero spedito è arrivato, evidentemente non l'avevo spedito. Cappa, ma c'è una persona che è ferma in malattia e niente, arriva la prossima settimana, non c'è problema. Allora, scusate un attimo, riprendo io. Antonio? Oh, dimmi. Ecco, Maurizio Pavanello è malattia, c'è la febbre, quindi non li può collegare il coso, lo spinotto. Si ha detto se lo vuole mandare, lo può mandare, però senza lo spinotto suo, capito? Invece glielo collega direttamente, lo usa come la parita. Ma Caparroge, quel Maurizio li fa, quelle cose lì. È lui il tecnico, lo sa più. Gaffa. Vabbè dai, il tuo microfono, la batteria sta scendendo. Va bene dai, adesso riprendo col mio apparecchio, dai. Gaffarroggio, dai. Riprendi Giuseppe e fai girare. Cappa, grazie Anto. Sì, riprendo io per dirvi che Giuseppe chiude le trasmissioni e domattina facciamo la levatina presto, dai. E niente, saluto tutta la ruota, dai, ci risentiamo domattina perché è sintonizzato alle 5 e sul 5, sembra anche un gioco di parole, no? Mario, Falchetto e compagnia bella, sicuramente li troverò domattina. E niente, dai, a tutti voi la più cordiale buonanotte, una stretta di mano e ci si risente domani sera, dai, buonanotte a tutti da parte di Giuseppe. Ti prendo io, scusate un attimo. Posso? Vai. Vabbè, io non ho chiesto prima il permesso, comunque non cambia niente. Anche io stavo trovando in chiusura di trasmissione, vi saluto a tutti, non so ricordarli tutti, magari mi dimentico qualcuno, e vorrei però far partire a Capri, non vorrei che fosse uscito senza avessimo lato senza avvisare, perché siamo pure, l'abbiamo lasciato in bianco. Io comunque saluto di nuovo a tutti, quelli da parte mia. Grazie al Capri se c'è ancora e lo saluto e poi grazie a girare. Ciao a tutti. Io. Saluto a te, Roberto, saluto Giuseppe, buon venerdì, buon attacco per domani, buon tutto. E io so anche ascoltare perché l'argomento, hai capito, era interessante a me, queste cose mi interessano, se hai capito, non ci sono problemi. E mentre tutto a Pierpaolo, andate per farlo. Ehi, capo, ciao Giuseppe, buon attacco per domani. E anche a Roberto, riprendi Gianni, fra ciao Roberto, ciao anche a Giuseppe, buon trabacco per domani e buona giornata. Dai, dai. Avanti Antonio e poi faccio. Antonio non lo prende, avanti a chi tocca. Lo riprendo io, là. Ciao Roberto, ciao Giuseppe, buon QRT, buon 144 quando lo fate e buona giornata per domani, tutte le prossime, vai, vabbè c'era Luca però non so cosa stia combinando, che spariti, riprendi tu, vela. Stava di positivo. Non ci vedi neanche stasera, me. Ero. Lo può confermare anche Giuseppe e tutti qua. L'ho anche detto, mi sto fermando 5 minuti per rilassarmi un po'. Se tu passi prima delle 8:10 o di un quarto non mi trovi, no? Perché tu a che ora sei? Penso fosse le 8 e un quarto, non ho guardato l'orologio, ma penso fosse quell'ora. Io sono passato alle 8. C'era anche stasera. Se mi sono anche trattenuto fino alle 9:10. Ciao, alle occhio. Ora. Lo diamo via quello, se lo vuole qualcuno lo diamo via. Come mai? Era così affezionato Antonio. Si vuole prendere un'altra cosa. Ma? Cava, cava. Già fa bene a cambiare, eh? Vabbè, e allora mai, che mi conta già? E cosa vuoi che ti conti? Sappiamo le stesse cose, lavoro, come diceva quello, casa e chiesa, lavoro e casa. Mi trattengo un poco con la radio e niente, mi faccio quattro chiacchiere con voi, poi rimango sino che riesco a rimanere in piedi, tutto qui, purtroppo è sempre tribunale, caro Vera, e anche oggi tutto il giorno piovendo, giusto per non cambiare. Sì, racconta a me, oggi, ma poi sembrava una presa in giro, allora, sono partito al negozio alla una. Non stava piovendo più, arrivo a casa e non stava piovendo. Alle 3:05 vado a uscire e comincia Don Raffaele. E grazie a Dio si è accompagnato tutta la sera. Cioè non so cosa inizia la pioggia per fare rompere le scatole, la volatura o qualcosa. Cazzo mi sono tempo che era con lui, bro. E domani lo stesso, ha messo pioggia e neve. Allora, infatti domani mattina io quando mi sveglio che accompagno a Giuseppe che c'è la zona di Nuoro, così che sino a Marcomello lo dovrei accompagnare, sempre che la sua radio mi senta, perché non ho provato su quella direzione lì con Giuseppe. Niente, così ci dirà la situazione com'è a Campese e tutto. Capa, non so come sarà domani quella torrima. È un po' di ghiaccio, un po' di ghiaccio, stavolta la temperatura vero che sta scendendo, siamo già a 2 gradi, ma non so se scende ancora. Gianni se nevica, se domani mattina se è bianco non scende a Porto Torres. Già ci scendo, se si può scendere già ci scendo. Con la neve, allora c'ho dei cartelli. Non ho dei cartelli. Allora non ti vai a fare. Se nevica lo Ioia, ti avrei scemare i momenti. Lui ha detto che viaggiava anche in treni. Che viaggiano anche in treni? Cacchio del biglietto vecchio. Che ha detto che di macchina ne fu una sola, se ne ficcava la scendente. Mentre c'è che viaggiano anche in treni. Ma così è, dovete viaggiare anche in treni. E tu dici, ho già scelto per il biglietto, pagamelo. Cavaghiavi. No, una volta che se noi siamo usciti quella volta che hanno inficcato tantissimo, non mi ricordo se erano 84. E io non sono sceso né io né il ragioniere, quello di Sassari. E ha telefonato e gli ha detto se e beh, con le palle stai giocando. Così ti ha detto. E non gli ha dato una risposta. E io gli ho detto sì, con le palle ci stiamo divertendo. Visto che non si può scendere, macchina ne ho una sola, se sfascio quella non ne ho altro. Ecco cosa te lo dico, per carità. Perché tu fai sì, se ne riccheggia, io pure se il sasso arrivati a quella macchina mia. Che mai si attacca la bomba? Vabbè, vabbè, che contro le ruote si dice che va a mezzo, non viaggia. Sì, contro le ruote. Ma se vengono a prendermi per andare a prendere tre ruote, se no io, la macchina mia, io non muovo per andare a vedere, che mi chiamai vecchia. Io sono bella, ti mirare, mi giurei. Vabbè. Arrivati quasi all'incrocio, scalo per rallentare la macchina e non rallentava abilizzando. Allora ho appena toccato il ferro, si esce da dritta a dritta. Detto, ma come non era base di issue, si esce da dritta, quasi così si era sabato. Capo, cos'è Mario? Così è morto esattamente la mente. No, io non la temo, ma la macchina mia non la tratta, penso la vedi. Che certa? Io sono andato dappertutto con la neve senza catene. Piano piano, trucchi andando. Almeno, ci portavo poi a mio figlio a scuola, al Cavapoleno, a fare la salita del Ponte Nuovo. Tutti in difficoltà, io piano piano, in seconda ci sono salito. E poi a scendere sono sceso da via San Buia, che è ancora più ripida. Io ci vado trucca trucca piano piano, io, ma sono gli altri che non vado trucca trucca e te ne vado in altri vinti. Ah, hai paura che gli altri ti prendiamo addosso? Sì, già una volta che la vendi vuoi da 4 ore, forse, non so neanche, ho dovuto fare il cane a scartare, non so se ti ricordi qualche anno fa ho fatto quella 4 ore forse. C'era lì a Utiputi, un metro di acqua. Cazzo, ti sarà tutti caldinato, me la giudichi, per carità, qua. Meglio niente, dalle esperienze fatte, quindi. No. E poi una volta, stavo nevicato, ma avevo nevicato una mattina così, una neve, da poco, ce lo ricordate. Con un motocarro, andiamo a toccare a poco di niente, che prima che avevo caldinato. Quindi la macchina mia non me la pongo del disco, Quello da quell'altro lì c'è ragione, che secondo mia strada a fare è pericoloso, perché io l'anno che ho accompagnato mio figlio al Cavapoleno, che c'era tutto il Ponte Nuovo ghiacciato, via San Buia ghiacciata, io piano piano, allora mi sembra che ci avevo da 75, piano piano sono salito, anche se ogni tanto si metteva un po' di traverso, perché quando trovava il ghiaccio tendeva a andarsene di culo, ma niente di particolare, piano piano sono salito. Sono andato a Forlì, senza catene, sono andato un po' dappertutto, là. Capo, no, già si può camminare, secondo quel tipo di neve, certo se superi i 4 centimetri ormai, vedi, c'è movida, anche perché fa dritto e trabocca. La stessa neve che col paraurti trabocca fa peso, quindi è una neve così di, che ti dico, di 15-20 centimetri già ce la fa, ma dopo un certo modo non ce la fa più, una neve di 40-50 centimetri di blocco, ti blocca il canale stesso, tutto quanto, e comunque purtroppo anche se uno ci sa andare, sta attento alle cose, però sono gli altri che non vengono direttamente, non ce la fanno, Io partisco la sapigli, andrei così la sapigli direttamente, se mentre mi viene solo un motocarro, e si sposi chiunque, perché non me ne frega niente a quel punto, Ecco, però, basta essere, diciamo, un po' prudenti. Perlomeno io ho sempre viaggiato, sono andato pure a Tibio molte volte, Niente, niente di particolare, niente di cosa. Certo, non ti puoi permettere né di correre né niente, anche da voi, è stato un pezzo ghiacciato se si riferisce. No, ho camminato tranquilli, 70, 60, qualche pezzo 80 dove c'è venuto il rettilineo, bello. Niente, però sempre con un R non troppo alta, che si poteva camminare con la macchina, io camminavo senza nessun problema e poi me ne ritornavo anche piano piano, tutto lì, non ho mai, cioè perlomeno io non ho trovato mai difficoltà. Sono gli altri che purtroppo si ha paura, perché io li ho visto lì via Savoia quando sono passato io, che c'era quel mezzettino che poi scende verso Coso, che non mi ricordo mai come si chiama quella via che dà a sotto, e niente, lì io ho visto tante macchine toccare i freni, uscirci, sbattersi, girarsi, e un bel macello, no no, io sempre piano piano svincolo, quando vedo che c'è macello da una parte giro dall'altra. Il brutto è proprio che poi starta la neve, che si forma il ghiaccio, quello sì che è brutto. Infatti è più pericoloso il ghiaccio che la neve, perché io ho visto che con la neve, quando ce n'è poca, quando ce n'è 10 centimetri, 5 centimetri, cammini tranquillo. Brutto è quando ghiaccia, come hai detto tu, una volta che calpesti, che si solidifica, si fa solida e si ghiaccia, allora è più pericolosa. Mi ricordo quell'anno che ha fatto un po' di neve, c'era il quadrato, dentro il quadrato hanno fatto la pista, faceva la testa in coda con le macchine, che se tu si sei tutti e questo qua, viva l'Italia, è un cacchio, viva l'Italia, giù che avevo mangiato la fuga di notte nei vostri assicurazioni. Va bene, non è detto che se lì chiamano i carabinieri succederebbe il casotto, ci faranno pure la contravvenzione perché non avevi le catene. Per guida pericoloso. Per tutto, è lì se sbagli, è la macchina che sbaglia, vai addosso alla macchina, va bene, gli fai l'assicurazione e si risolve il problema. E se cazzo che c'è uno, e magari mi sono i lamenti, che cazzo ti ricciani, ed è peggio. Ma era tutta la gente vola poi dentro, poi ha una pista di occhi sul ghiaccio, già c'è attorno, quindi vede le macchine con le macchine, le tirava la manettone e poi te la frenava, girava le due buste. Poi, ma sono divertimenti un po' stupidi quelli lì, perché uno se vuole divertire, entra e non c'è nessuno, può fare lo scemo come vuole perché non c'è nessuno, ma se vuoi una macchina parcheggiata o una cosa parcheggiata e se la in lato, quindi ti sacraneggia da buio. Quattro macchine era fermi le macchine, e poi lui si è andato in un stesso senso, non si hanno coordinati i movimenti, deve essere sicuri. E bravo, gli innocenti per bambini deficienti, dai. E poi dice, viva l'Italia, come ti esecuti? Dice, cosa viva l'Italia, ma mi fa la sicurezza, no, te ne voto, te giocai voto, e allora ti pigli pure un rischio. E beh, in quel caso lì ognuno si paga i suoi danni. Beh, non ne fa tre mancate tutti e due, solo che chi dove si è conto aveva la macchina vicina, adesso mi la via nuova, lo fatti chi si. Peggio per lui, se ti piace la bicicletta devi anche saper pedalare, tutto lì, riprendi vela. Capo, riprendo, ma c'è anche, c'è Capri 2 fermo, avanti Capri 2. No, Capri 2 è chiuso da 3 ore, è come tuo figlio, ha detto che stava cambiando il baracchino, però non si è fatto sentire. Altro che ha cambiato l'apparato. No, non è già c'era Capri 2, queste cose fanno i posti. Ma io ho sentito che è chiuso Capri 2. Ci sono anche passati, no, non ne sto parlando. E poi quando succedono gli le macchine non ti sentivo poc'anzi, infatti credevo che non c'eri, che avevi chiuso anche tu, ogni tanto la buona mano e poi con la paroppola, e la sua grande veglia, per carità, la vecchiaia è carogna. E anche io sono così, molte volte fai girare, non mi ricordo più chi c'è in frequenza, hai capito, e sfugge molte volte, no, ma io già sono sempre in quei ricchi, leggo qualche rivista, non ho problemi, non mi offendo per quello, capito, stavo male domani già se non viene quello, che mi fa andare a Sassari a Covello. Già viene, che se fa una persona di parola, dai. Già viene. Poi tutto male che vada me lo prendo io, se tu non ci sei me lo prendo io. Non mi mangi. Il nome mi serve questa roba, se no già va compensando, esito a... Mi serve proprio per alimentare questo apparecchio, perché sicuramente poi hanno fatto qualche modifica, perché manca un pochino fuori su sbavinario. Io gli ho fatto questo di terza forza, che prima andava lì con il microfono su, ma poi li modificava, non lo so per cosa. E ci filavano questi carne più tre. E magari ci hanno toccato qualche cosa, io già non lo so, hai capito? Bisogna vedere se vanno per coltare nel Vallagare, noi aspettiamo domani, cosa vuoi che ti dica? Riprendi per fare, quell'apparecchio comunque è buono che c'è per l'Antonio, l'hai regalato a quel prezzo. Lo so, ecco la vuoi fare, tocca andarlo via, dai, vuole un altro nuovo. E allora vuole realizzare qualcosa, già andrà bene, contento lui, diciamo contento di tutti, però come stava dicendo Roberto già, si è ripresi, diciamo, per esempio quell'isola, se non so quanto avrai letto e non bene, perché la parecchio non è recente, con quella da fare quello non fermo complicare, una stazione base non è differente. Io sono fatto così, se una cosa non mi conviene non la prendo e basta. No. Non la prendo, mi prendo quello che mi conviene. Ok, no, quella roba lì è la grande, che se c'è qualche graffetto si può rifare la carcassa, io ho fatto quello delle CPA in nuovo di legna e per quello lì mi metto l'importante che non ci abbia roba già tecnicamente che sia a posto. Tiene tutto bene Stefano, è la mania con gli apparecchi come lui. Sì, allora, già va bene. Come stavo pensando anche di cosa, siccome siamo schivi, perché una parte del pianificatore può andare a René, che non ci sia René sporco, capito che non agganci quando tocca la pianificazione, però il resto è abbastanza inutile. Nuovo come quello che come io ci sono a ritoccare le bottine e mica la farò fare adesso no. E a parte di dove ricordate che tecnicamente siamo a posto, poi sull'elettronica ci si arriva sempre. Riprendi Mario. Andà bene, ma facciamo riprendere Antonio un pochettino che è un bel parcheggio. Antonio ci sei? Riprende Antonio. Vai Vela. Sono qua. Ah, ci sei, riprendi tu allora Antonio, là. E scappa. La verità è che me ne devo. Ne voglio acquistare un altro, è per quello che lo voglio dare via. Anche perché per occuparmi meno al posto, perché non so posso permetterlo. Fai già va bene, poi ognuno sa di sé, no, agli altri non interessa perché lo devi vendere, perché non lo devi vendere, uno se gli interessa se lo compra e se non lo lascia, tutto lì, poi perché lo stai vendendo è un problema tuo, agli altri non interessa niente, perlomeno io la penso così, sapendo qualcosa vuol dire che ho un progetto di pigliarmene uno magari più recente, più bellino, magari con più frequenze, e così via, cappa cappa. Cappa è proprio così, un uomo più moderno, che ha un pochettino, cioè che ha più roba, eccetera eccetera. Ho deciso di prendermene uno così. Se no, che ci vuole prendere? È un bel apparato, se no, perlomeno, per quello che ne ho sentito io, so che è un bellissimo apparato. Capa, a voi mi sta arrivando, l'8001 da Torino. Ti sta arrivando da Torino? L'8001 modificato. Quando accendi è blu, quando schiacci è tutto rosso, modificato con l'effetto del elicottero, 400 canali, e 40 watt di uscita, regolabili. Cappa, allora se ne era parato, ma sicuramente ti sta capolino la bucciacca, vai, vera uno. Già costa, mala suerte. Perché io sento i prezzi, come ha detto Gianni, un Saturnecco oggi, usato, trattato bene, giustamente, non lo paghi meno di 200 euro. Di più sì, di meno no. E così tanti altri apparati, come ho visto che il Gemodo, il Iaesu, c'erano ancora prezzi molto alti. Capo, sono i prezzi alti, sì. Gianni, ti piace 8001? Arrivare, mi deve, preso, ma già pronto te lo mando. Ma lo stanno facendo. Su internet l'hai preso? No, internet. Ho telefonato a Torino. Ma no, ne sono innamorato un bel, mi piace un bel come radio. Mi prendi, capri? Ok, la prendi con la mano. Ecco, così non c'è più il rischio. Ehi, già sono bene, che ogni tanto Antonio sarà anche giovane a cambiare. Penalizzati che non ci viene, e quindi 23 ed era modificato, me l'aveva venduto esattamente l'amico che è entrato poc'anzi, nonché Lato, e niente, e quello lì usciva una bomba, però l'ho perso e via. E adesso ce ne ho uno MB24 che è collegato allo Yaris, quello lì. Poi c'ho un MC60 e già ne ho, c'è il diavolo rosso che è collegato con l'arbitro, l'avrei visto, da buon pugno. E poi ne ho tanti altri, i microfoni sono tutti dentro una scatola e niente. Anche io ce l'ho sotto i microfoni originali degli apparati, qui c'ho, diciamo, questo che ha adattato più un intec adattato sulla RAM 78 Plus e niente, però diciamo che adesso che ho comprato il Kodak si deve adattare il microfono suo, però l'altro non lo adatterò nell'altro, hai capito? No, che siano precisi, perché quelli si mettono a mano e quelli per una cosa non si modulano, però sono convinto che domani si mettono a mano male per una, infatti lascio tutte le cose dopo, le altre singole le faccio fuori, mi prendi che fa? Ma non è che il sicuro è tutto dentro, che ci mettono a mano, no, capri? No, questi sono interessanti perché non si modulano, però ho visto il grande quando ho portato il corso che era interessato e ha detto è l'altro, ha detto qua la tua in vetrina, hai capito? E mi ha detto anche di poter metterlo a posto, no, no, il modulare non si modula, però sono interessati a queste cose giusto per averlo, perché a parte un cammello la roba, hai capito? Di quello ci sono interessati, non voglio essere in farmi non gli occhi magari per un microfono poi. E qua domani fanno così, dai. No, fratelli lo fanno così. E già, c'ho l'esperienza in casa di mamma con la sorella. Qual è il motto nuovo, sono il dite per una camera, lascia perdere che hai capito, loro no perché fanno troppo la corsa, hai capito, però quello sai cos'è, un domani si sposano, ci sono i figli magari, hai capito, quello lo voglio prendere io, quello che succedono queste cose, è successo a me che io sono a festa di nonno e quando passano i miei cugini mi guardano lo sporco. KP2, occasi ti volevo fare una domanda, tu hai detto che domani sera ci sono le fame, ma sono fame ci sono. Sì, ci penso dopo, una volta sono morto, che mi frega, ma c'era la finisco lì dentro, io fido dove suonare lì domani. Capi? Domani? Ho detto domani a mangiare, sono fame ci sono. Piedini, Cotenna, non so, orecchie, muso, non c'è niente da mangiare. Io non lo so se di quella roba gliela metto, io già mangio in casa, per lo giorno domani, e qua c'è quella roba che mia moglie la cucina un po'. Io sto dicendo alla festa, se no non ci vengo, perché io sono fabbrico, e fame non la posso mangiare. Non lo so, ma come va condita se c'è di questa roba in mezzo, non te lo so dire, comunque la quella papà, non lo so se c'è di questa roba di piedi, di maiale, di questa, non lo so, ma se vuoi venire a me, fa piacere, io non lo so però come va il condimento, io non mangerò, perché mi mangio a mezzogiorno, hai capito, la notte, non mi attuffo a questa roba, mentre invece e io riprendo, ecco, sono servito a BT che mi sta venendo la biocco, vi saluto tutti cordialmente, vi auguro una buona notte e vi trovo a comprare domani, ciao ciao ciao. Sì, ciao ciao, buongiorno a qualche a te, buon tutto per domani, e se domani, che al momento ti ama, che lo sento, che sa qualche cosa, capito, ti ricordo che ti lascio il cappello sopra, per lo sciur, capito, è vero che condizioni è la roba, ma già per avere poco la cosa bene. Speriamo. carica, buon tutto, ce la risentiamo alle prossime. Oh, ragazzi, io lo stesso mi dovrò assentare perché è noto la mangiatoia, così vado a caricare anche io. Niente, però vi ascolto, la radio la lascia accesa. Thank you. lasciate qui, sono a Pizzi, sta già solo a Pizzi. Non c'è stato un attimo di tregua, niente, ho finito tardi. E non so se fa freddo così, sarà anche domani così. A dire un orario e poi si fa tardi. E anche chi mi avvoglia perché oggi sinceramente non volevo l'ora di arrivare a casa. E quindi non lo so, sono giornate molto ma molto dure. Vediamo, se dovesse essere la metà del lavoro che sbocca presto, te l'ho detto, quello senz'altro, se ce la facciamo a uscirne presto. Se è un'altra giornata così, proprio no, perché sono completamente a pizzo. E non posso immaginare che fai. Ok. Ok, ti saluto allora, buon pomeriggio per parte, buonanotte, saluto a tutti, anche gli amici che sono in ascolto sul 21, capo 2, passi in quelli di SK, ciao ciao a tutti. Ciao ciao ciao, ciao anche da parte di Antonio, che lui non ti ascolta, ok, ciao, buonanotte. Ciao. Bene, bene, anche la radio vera va in QRT e saluta gli eventuali ascoltori. Ciao, buonanotte.